l'importante è stare bene, tutto il resto è attesa. Se un diamante aver paura è la peggior difesa. Se pensiamo troppo al dopo ci perdiamo adesso. E mentre pensi troppo al resto mi stai già perdendo. L'amore è quella cosa che non sempre ha senso. E forse il senso è proprio non trovare senso. Di te mi piace il fatto che non ti capisco. E forse ti ho capita solo adesso che ti ho perso. Questo è il bacio che non ti ho mai dato, un silenzio che ha il gusto d'amaro. Il fiore che non ho comprato, tra i tuoi gioielli sei quello più raro. Amo l'amore dei marinai, che danno baci poi vanno via. Dimmi ti prego se tornerai, qui torna solo la nostalgia. Cosa vuoi da me? Come una fenice adesso sono cenere. Un mare qui di fronte annego nelle lacrime. Tu cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Stare bene, tutto il resto è attesa. Se un diamante aver paura è la peggior difesa. Se pensiamo troppo al dopo ci perdiamo adesso. E mentre pensi troppo al resto mi stai già perdendo. L'amore è quella cosa che non sempre ha senso. E forse il senso è proprio non trovare senso. Di te mi piace il fatto che non ti capisco. E forse ti ho capita solo adesso che ti ho perso. Ma se si potesse tornare indietro nel tempo e poter cancellare ogni momento per ricominciare, sceglierei sempre lo stesso finale. Perché la vita non è come un film, io tipo Joel, tu Clementine. Gocce di pioggia e di fango, chiedine un altro, ancora un bicchiere di spritz. Tu cosa vuoi da me? Come una fenice adesso sono cenere. Un mare qui di fronte annego nelle lacrime. Tu cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? È importante stare bene, tutto è...